30 giorni di nave a vapore, fino in America ci tocca andare. 30 giorni di nave a vapore, fino in America ci tocca andare. Dormendo su un nudo terreno, come le bestie a riposare. E l'America è lunga e larga, è circondata da monti e da piani. E l'America è lunga e larga, è circondata da monti e da piani. E l'industria dei nostri italiani ha costruito ponti e città. E andremo coi zaini di zingari a girare di città in città. E andremo coi carri dei zingari a girare di città in città, costruendo fabbriche e ponti, e questa terra anche nostra sarà. Trenta giorni di nave a vapore, fino in America ci tocca andare. Trenta giorni di nave a vapore, fino in America ci tocca andare. Abbiamo trovato né paglia né fieno, come le bestie a riposare.